Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Anche questa sera, come tutte le sere, fra le 19 e le 20 su Rock FM, Giulio Caperdoni con Eclettica, raggiungibile all'indirizzo di mail giulio@radiorockfm.com. Ed è una bella sorpresa scoprire di volta in volta come un nuovo ascoltatore si faccia vivo appunto utilizzando questo indirizzo. E da quando abbiamo questo nuovo orario 19:20 la cosa è aumentata, ma aumentata in maniera esponenziale, e di questo sicuramente sono molto contento. Quindi mi rendo conto, ho questa cartina di tornasole, del grosso numero di nuovi ascoltatori che ci sono di Eclettica, quindi magari un po' di istruzioni per l'uso possono in qualche modo servire. Sono molto importanti le playlist di questa trasmissione, cioè l'elenco dei brani, degli incipit e dei film che caratterizzano ogni volume della settimana. E avendo la possibilità di riascoltare il tutto poi in podcasting, potete andare anche appunto a incrociare le due cose: l'ascolto o il riascolto in podcasting e la lettura delle playlist, perché non sempre io in onda sono così preciso su quello che vado a trasmettere per creare l'atmosfera di Eclettica. Attraverso un'ampia porta scorrevole in vetro si accedeva ad una terrazza semicircolare che dava su un prato con alcune file di ciliegi. Lungo il muro orientale, Baba e Ali avevano seminato un piccolo orto con pomodori, peperoni, menta e del gran turco che non attecchì mai. Io e Hassan lo chiamavamo il muro del mais malato. All'estremità meridionale del giardino, all'ombra di un nespolo, c'era la casa dei domestici, una capanna di argilla dove abitavano Hassan e Ali e dove io, nei 18 anni in cui vissi lì, entrai pochissime volte. Era una stanza spoglia, ma pulita, male illuminata da due lampade al cherosene e arredata con due materassi appoggiati alle pareti, uno di fronte all'altro. Un vecchio tappeto di erat con i bordi sfilacciati, uno sgabello a tre gambe e, in un angolo, un tavolo dove Hassan disegnava. Appeso al muro solo un piccolo arazzo con le parole «Allahakbar» ricamate a perline, che Baba aveva regalato ad Ali di ritorno da uno dei suoi viaggi a Mashhad. Era in quella capannuccia che Sanaubar, la madre di Hassan, l'aveva messo al mondo nell'inverno del 1964, un anno prima che mia madre morisse dandomi alla luce. Hassan, invece, aveva perso la sua una settimana dopo la nascita, in un modo che per un afghano è peggio della morte. Sanaubar era fuggita con una compagnia di ballerini e cantanti girovaghi. Hassan non parlava mai di lei, come se non fosse mai esistita. Mi chiedevo se la sognava, se immaginava che aspetto avesse e dove si trovasse. Mi domandavo se desiderava incontrarla. Provava anche lui la nostalgia struggente che provavo io per la madre che non avevo mai conosciuto. Questo era ancora Il cacciatore di aquiloni di Khaled Hosseini. Into the line, into Important job there is. Temping? Dewey, a substitute teacher is not a temp. He's a babysitter. Oh, yeah, you think it's so easy? Well, I'd like to see you try. You wouldn't last one day. Dude, I serve a society by rocking, okay? I'm out there on the front lines liberating people with my music. Rocking ain't no walk in the park, lady. Giorni scorsi su myspace.com/eclettica era comparso questo commento: ciao Giulio, mi volevo iscrivere al partito degli innamorati di Soul Seppi, è a te che mi devo rivolgere? Ed era Memory Man che l'aveva scritto. La risposta è ovviamente sì. Per esempio, quest'oggi voi innamorati di Soul Seppi avete avuto soddisfazione proprio in inizio di Eclettica. Poi ci siamo ascoltati i Presets, band australiana, fiore all'occhiello della produzione electro-rock della Gigolo Records, che è l'etichetta di DJ Hell, che fra l'altro stanno per arrivare anche in Italia, sempre che stiate ascoltando Eclettica in diretta, venerdì 22 giugno. Suoneranno al Plastic. È chiaro che se state ascoltando in differita, per esempio grazie al podcasting, allora potrebbe essere tardi per quanto riguarda questo annuncio. Ora vi lascio con Farabai Lionheart, uno dei nomi nuovi lanciati da Eclettica, che sta crescendo di settimana in settimana. Me ne rendo conto, è il termometro. Il termometro sono le vostre mail, i vostri commenti, le vostre telefonate. Mentre andavamo al cinema Zainab a vedere un nuovo film iraniano, prendemmo la scorciatoia che attraversava la caserma vicino alla scuola media Istiklal. Baba ce l'aveva severamente proibito, ma in quel periodo si trovava in Pakistan con Rahim Khan. Scavalcammo lo steccato che circondava la caserma, superammo un torrente e sbucammo in uno spiazzo di terra battuta dove arrugginivano vecchi carri armati abbandonati. Alcuni soldati giocavano a carte e fumavano all'ombra di uno di quei relitti. Uno ci scorse e, dando di gomito al suo vicino, chiamò Hassan. «Ehi, tu! Io ti conosco!» Non l'avevamo mai visto prima. Era un uomo tarchiato, con la testa rasata e una barba nera di qualche giorno. Il modo in cui ci guardava, con un sorriso lascivo, mi spaventò. «Non fermarti!» dissi tra i denti. «Ehi, Azzara! Guardami in faccia quando ti parlo», gli urlò il soldato. Passò la sigaretta al suo vicino, unì indice e pollice della mano destra e infilò il medio della sinistra in quel cerchietto. Dentro e fuori. Dentro e fuori. «Ho conosciuto tua madre, lo sapevi? L'ho conosciuta proprio bene. L'ho presa da dietro, laggiù, vicino al torrente». I soldati scoppiarono in una risata. Uno fischiò. «Non fermarti, non fermarti», ripetei. «Che fica stretta e zuccherosa aveva», diceva ghignando il soldato, mentre i suoi camerati gli stringevano la mano. Più tardi, nel buio del cinema, sentii Hassan singhiozzare. Le sue guance erano rigate di lacrime. Lo attirai a me. Lui appoggiò la testa sulla mia spalla. «Ti ha scambiato per qualcun altro», sussurrai. ti ha scambiato per qualcun altro. Questo era ancora il cacciatore di aquiloni di Khaled Hosseini. Mi è arrivata una busta dalla Sub Pop, l'ho aperta e ho trovato al suo interno The Midnight Room, il nuovo disco, uscito proprio ieri da parte degli italiani Jennifer Gentle. Apro il disco, come faccio di solito, per guardare le note di copertina e trovo solo una faccia all'interno di questo disco. E mi domando il perché. Allora comincio a leggere le note biografiche, mi rendo conto che Jennifer Gentle sono diventati da un gruppo uno pseudonimo. Sono rimasti in pratica in uno. È rimasto solo Marco Fasolo, che poi, per quanto riguarda le date live, si dota di un gruppo, ma che ha inciso completamente da solo questo disco, The Midnight Room, dal quale ci siamo ascoltati Electric Princess. Prima parte del volume di quest'oggi di Eclettica, che si chiude con la cover dei Coldplay, che stiamo imparando a conoscere da parte di Jeanette Napolitano, ex Four Non Blondes.